Torno dall'Irlanda con la testa molle, gasato come una bottiglia d'acqua tonica. Si bemolle, sempre più in ritardo mentale con questo disco, meglio questo che un ritardo mestruale. Che imprevisto, a me sembra davvero che le cose vadano a rilento. Mettere d'accordo tutti quanti è uno sbattimento. Quante sono le barre in un testo rap? 16. Davvero vuoi fermarmi a questi numeri? Credici. Io non riesco a dirti tutto neanche fra altri 8 dischi. Dal 2006 che sputo rime Frey, you capisti? Meglio il rap o la trap, minimale oppure fat. Tutti che in un pezzo dicono che è su spec. Io sono rimasto mai partito, dicono che sono un buon partito, invece sono un santo pervertito. Sono la metà di quanto percepisci. Tu sei lento e non capisci, perché quando parli pisci. Sbraiti così tanto che poi rantoli, con la bava agli angoli, come un cane abbaia dei coriandoli. Pensi alla forma, meglio il contenuto. Resta qui seduto, che ti spiego quanto poi sono cresciuto. Questa è una canzone senza sentimento. Se ti aspettavi il tuo cantante preferito, beh, non è il momento. Beccati sti turpiloqui, tanto tu non scopi. Passi il tempo a smanettarti solo, scrivi soliloqui. Obi-Wan Kenobi sulla traccia, un vecchio Jedi. Perso nel deserto con gli alieni, resto ancora in piedi. Sputo nell'imbuto dell'hip hop, tanto non mi vedi. Questo orgoglio nazionale che vi rende scemi. Io che dico, questo è l'ultimo promesso. Come fossi più importante di una striscia di merda sul cesso. Sono proprio raffinato quando mi ci impegno. Credo dell'imbarazzo generale oppure sdegno. Quante scomode banalità, leggende bizzarrie. Vieni dalle parti mie, due bifolche e quattro insemenie. Guarda che sindaco al mio centro urbano, colui che pippa pure il pan grattato e poi una canna e sgamo. Ma che bella l'Italia, è una fortezza che ti amalia. Un po' insicura, un po' puttana, un po' che c'ha un po' troppa smania. Ma che bella la terra, madre piena ed orgogliosa, violentata dai suoi stessi figli ingrati, ora riposa. Spegniti un momento, prova a farlo, chiudi il verbo. Inala ossigeno, abbandonati al silenzio dell'inverno. Solo qui potremo cantare il nostro sgomento. Vorrei dartene un assaggio, ma non è il momento. Thank you.